Sì, ormai parliamo di vero e proprio menefreghismo, perché noi sin dalle ore successive dello sgombero abbiamo sollevato una serie di istanze culturali, politiche e sociali che non riguardano, a dire il vero, noi in quanto collettivo, ma riguardano, crediamo, una parte importante. Anni è stata al centro di iniziative importanti di lotta e di riscatto, di buone pratiche di autogestione, ma è stata anche al centro del mirino della repressione. Bologna è stata e tuttora all'attenzione delle cronache anche nazionali per iniziative repressive veramente molto forti. Ecco, lo sgombero del laboratorio Crash è avvenuto in questo clima. Abbiamo sollevato una serie di istanze di natura, come dicevo prima, che culturale, ma anche politica, ma anche sociale, e giunta, diciamo così, ha detto un implicito me ne frego, possiamo dire questo, perché di fatto di tavoli ufficiali, formali, dove almeno si discuta di una proposta, in questi mesi ormai non ce ne sono stati. Abbiamo prodotto alcune iniziative che avevano cercato di sollevare il tema anche nel centro città, con un grandissimo concerto, una grandissima manifestazione pubblica che ha coinvolto migliaia di persone, tornando a sollevare questi nodi che da tempo vogliamo porre al dibattito della città, ma dalla giunta comunale il silenzio più assordante, se non qualche chiacchiera su l'ottava pagina di qualche quotidiano, due righette per dire ah sì, adesso vedremo, però di fatto un tavolo, una proposta concreta non c'è stata. Quindi quello che abbiamo scritto oggi si scrive un po' in questo clima, che da una parte ci fa in maniera un po' emotiva, diciamo così, umorale, la pazienza è finita, dall'altra parte diciamo anche dal punto di vista politico che abbiamo una responsabilità nei confronti di chi vive culturalmente e socialmente una serie di bisogni che con il laboratorio vengono soddisfatti. Voi avanzate anche una proposta, in realtà, perché dite ci sono tanti spazi vuoti lasciati all'abbandono in città e altri dovranno cambiare destinazione. Avete citato l'attuale hub ex CIE, ma anche l'ex caserma Sani. Insomma, se ci fosse la volontà ci sarebbero dei posti. Ma certo, i posti sia di enti pubblici come poste e ferrovia sono tantissimi. Poi c'è tutta la questione delle caserme, ad esempio la caserma Sani, nel quartiere dove abbiamo sempre svolto le nostre attività, è lasciata chiusa, abbandonata lì ormai da decenni, e quella struttura così bella e grande potrebbe essere sicuramente un contenitore importante non solo per noi, ma perché no, anche per tante altre associazioni del quartiere, per cui noi ci offriamo anche un po' come una sorta di testa da rete sociale in questo dibattito. E poi la suggestione che ci è venuta leggendo l'intervista al prefetto, che diceva noi a gennaio vogliamo chiudere l'hub di via Mattei e destinarlo ad altro. A quel punto, visto anche la sua storia recente davvero raccapricciante, atroce, di tortura, diciamo così, di internamento, di sofferenza dei migranti che venivano rinchiusi nei CI e poi divenuto anche hub, vogliamo fare anche questa proposta: se va cambiata la sua destinazione, la sua ragione sociale, facciamolo diventare invece un luogo di libertà, un luogo di cultura, un luogo di autogestione, un luogo di solidarietà. Sarebbe un modo per mettere anche una pietra con il suo recente passato e ridare a quel quartiere, a quel territorio, a Bologna, uno spazio aperto per le forme associative e per i mondi sociali che abitano la periferia. Voi avete lanciato questa proposta, questa palla, qualora non dovessero arrivare risposte come è stato in questi mesi, e cosa succederà? Ma succederà che noi, di fatto, da dopo che è stato sgomberato il laboratorio Crash, siamo in piena campagna di agitazione. Abbiamo voluto prenderci questo mese anche un po' di riflessione dopo il grande concerto. Naturalmente abbiamo a che fare, come accennavo prima, con i bisogni di tantissimi uomini e donne, giovani, giovanissimi, ma anche operai e precari, che hanno la necessità di avere uno spazio di aggregazione, e noi a questa necessità rispondiamo, lo abbiamo detto serenamente. Se non ci saranno delle risposte positive alla nostra proposta di confronto, di mediazione, di trattativa, ad occupare, questo è chiaro.